Siamo con Roberto Silvestri, coautore del libro Il film del secolo, insieme a Rossana Rossanda e Mariuccia Ciotta, che sarà presentato alla libreria Fahrenheit 451 il prossimo 22 aprile. Roberto, ben trovato. In Campo dei Fiori, In Campo dei via Fiori, di Campo certo. dei Fiori, sì. Ciao Federico. Ci racconti di questo lavoro? Certo, dunque, è stato un lungo dialogo con Rossana Rossanda, fatto nella sua casa di Parigi qualche anno fa. È uscita già una edizione, adesso Bompiani, che è stata rilevata da Giunti, ha voluto ristamparlo. E siccome quando uscì la prima volta ci furono un po' di problemi perché uscì contemporaneamente un libro di Einaudi, di Rossana, e quindi Rossana rimase un po' male perché Bompiani aveva fatto questa scorrettezza di far uscire più o meno due libri uguali, allora aveva partecipato poco alla promozione del libro, mentre adesso Rossana ha intenzione anche di tornare a Roma e quindi di dare interviste, eccetera, eccetera. L'abbiamo fatta perché Bompiani aveva chiesto a Mariuccia Ciotta di fare un dialogo con Rossana sulla filosofia, sul femminismo e sulle donne, ma Rossana non voleva, invece ha accettato di buon grado di confrontarsi sul cinema, anche perché più o meno era stata lei a istigarci a diventare dei critici cinematografici, perché in un momento in cui nel giornale ancora la longa manus di Aristarco, e quindi di una, diciamo, scientificità marxista rispetto al cinema, era la linea dominante, lei e tutta quella generazione di comunisti che erano stati radiati dal Partito Comunista volevano un po' liberarsi di questo fardello un po' dogmatico, e quindi avevano pensato che una femminista da una parte, come Mariuccia, e un giovane, avevo 23 anni e mi occupavo già del Politecnico, quindi del movimento, diciamo, dei cineclub, di questa nuova generazione, no? Che vedeva nel cinema qualcosa di diverso, di più, diciamo, libero rispetto agli schemi dogmatici del marxismo aristarchiano, e quindi più anche contagiosi e anche appassionati rispetto al cinema. Ti ricordi, no, quella famosa polemica tra Carnascialeschi e Quasimali, no? Che era stata innestata un po' da Beniamino Placido e da Abruzzese, no? Rispetto al modo un po' severo di guardare il cinema, e di guardare il cinema soltanto quando Sì. era drammatico, eccetera. Insomma, noi eravamo le persone giuste, forse, per cambiare strada. E quindi il libro si occupa di riguardare la storia e la politica del secolo attraverso, appunto, il contributo di Rossana, che è stata anche responsabile, quando era nel Partito Comunista, della politica culturale, no? Come direttrice della Casa della Cultura di Milano. Abbiamo a lungo discusso un po' di tutte le fasi del cinema, quindi da Einstein, la rivoluzione russa, il neorealismo, il realismo socialista, la Nouvelle Vague, il nuovo cinema americano, e su quello ci siamo molto azzuffati, perché comunque Rossana, che pure lasciava molta libertà, non sono mai intervenuti nelle nostre recensioni, nessuno, diciamo, dei dirigenti del manifesto ha mai voluto dire parlate bene di questo film, parlate male di questo film, però su Guerre Stellari c'è stato un grosso scontro, così come anche su Crash e su una linea del cinema horror che noi pensavamo molto importante, che invece veniva piuttosto contestata da Pintore e da Rossana. Senti, com'è strutturato il libro? Dunque, il libro è andato abbastanza da solo, nel senso che noi abbiamo cominciato chiedendo a Rossana quali erano i suoi film, i suoi piaceri schermici proibiti della sua infanzia. Quindi anche lei ricordava come molto traumatica alcune immagini di quei film esotico-orientalisti ambientati in Africa con teste mosse, con cannibali, eccetera. E poi i suoi piaceri, i suoi divi preferiti. Infatti volevamo intitolare il libro Avrei voluto essere Ava Gardner, perché lei era un po' un modello di donna un po' antitetica rispetto a come si vedeva Rossana, che già da giovane aveva i capelli bianchi, uno sguardo molto severo, quindi un tipo invece di erotismo piuttosto vistoso. E poi il suo amore per Gary Cooper, per il cinema americano. Ecco, è molto importante questa cosa. La generazione di Rossana e di Luciana Castellina è stata, paradossalmente si può dire, siamo diventati comunisti attraverso il cinema americano, no? Questa è una cosa interessante perché il cinema rooseveltiano dagli anni 30 agli anni 45 fino alla morte di Roosevelt e anche qualche anno dopo, perché ancora, diciamo, il film noir è stato impregnato, no, di spirito democratico rooseveltiano, scodellava una serie di valori che evidentemente antitetici rispetto a quelli del fascismo, no? Per cui in Italia essere comunisti, cioè basarsi sulla giustizia sociale, sull'intervento dello Stato per risolvere la politica, no? Perché prendeva il posto dei padroni dell'economia per gestire, per frenarli, per fermarli nella loro avidità, insomma, rappresentavano tutti poi quei valori che nel Partito Comunista sono stati un po' identificati sia contro gli anti sia con Berlinguer, fino poi alla crisi di Praga, al maoismo, no? Come poter avere la legittimità di sparare contro il quartier generale per far sì che il partito non si burocratizzasse, non fosse sempre in mano alle stesse persone che lo controllavano ferreamente. Quindi, da questo punto di vista, il nostro approccio, che era di grande interesse per Hollywood e per il cinema americano, è stato molto, molto appoggiato, stranamente. Roberto, hai toccato Eisenstein, la Nouvelle Vague, la vostra conversazione, che periodo cinematografico abbraccia? Ma dal cinema muto fino a oggi, fino al digitale, però attraverso questo, diciamo, schema, no? Se ti piaceva Antonioni, perché non ti piaceva Antonioni? Lei, come altri, avevano un approccio di tipo molto, diciamo, popolare, il cinema intellettuale, il cinema troppo complicato, il cinema un po' incomprensibile alle masse. Per una certa generazione, stranamente anche perché Rossana poi in effetti era una critica d'arte raffinata, ha fatto anche un documentario molto bello sulla pop art americana andando in America negli anni in cui Rauschenberg, Lee Warhol, Oldenburg, eccetera, erano insomma, gli artisti più importanti del momento. Quindi, stranamente però, dal punto di vista cinematografico, c'è stata una certa ostilità di quella generazione al passaggio Rossellini, credo. Io penso che Europa 51 sia stato un film, e cioè, tra Europa 51, no, si capisce anche la libertà di fraseggio che poteva avere poi un Antonioni o altri cineasti, diciamo, tra virgolette, difficili, ma Europa 51 è stato un po' un momento di grande scontro. Tutta la cultura marxista, tutta la cultura cattolica, tutta, diciamo, la cultura dominante italiana ha rinnegato quel film, che invece per la nostra generazione era stato il film chiave, no? Cioè il fatto di trattare folle, pazza, una persona che si svincolava dalle chiese di tutti i tipi, dalla chiesa comunista, dalla chiesa cattolica, da quel tipo di ipocrisia e di mancanza di afflato proprio umano, no? Che era rappresentato da Ingrid Bergman, da quel personaggio. Beh, per noi è stato un film chiave, no? Perché poneva il problema fondamentalmente dell'onestà dello sguardo del regista rispetto a te che sei passibile di essere soggiogato dalle immagini, no? Quel film dimostrava che si poteva essere liberi non tanto nell'argomento da trattare, ma quanto proprio negli sguardi che ti venivano imposti, con l'onestà dello sguardo. E quella è stata una chiave per leggere anche, diciamo, l'onestà, la verità, il cinema del reale, quando è ingannevole, quando non è ingannevole un'immagine, quindi una specie di metodo che ci è servito anche criticamente per giudicare un film. E su questo credo che ci siano stati un po' di contrasti. D'altra parte, le cose più belle Rossana le racconta proprio quando si mette a parlare di politica, quindi di Togliatti, di Fidel Castro, tutta l'esperienza che lei ha avuto a Cuba, la sensazione che Castro in qualche modo sapesse della morte di Guevara e che non è che facesse molto per impedirla, insomma, cose di questo tipo. Roberto, quel titolo sta un po' anche a rappresentare il rapporto tra il cinema e il secolo. Esatto, volevamo, un po' si dice, no? Non so, il film dell'ottobre, il film del maggio 68, cioè una specie di sequenza che ti permette di seguire tutto il secolo dall'inizio alla fine, attraverso quindi di non farne soltanto un libro di cinema, ma di farne anche un libro di riflessione sulla storia, sulla politica attraverso le immagini. Questo era un po' il senso di questo titolo. Senti, come le informazioni online, per saperne di più rispetto anche alle presentazioni che ci saranno, c'è su Facebook o su qualche portale Sì, un... veramente lo volevamo, sì, l'abbiamo messo in questi giorni su Facebook, sia nel mio, come si chiama? Il proprio sito, non so, il Il proprio sito, blog. così, la mia home, Ah, ok. sia la mia sia quella di Mariuccia, Ok. e ci sarà Daniela Turco, che è una critica di Film Critica, che è una rivista che ci è stata sempre molto vicina, tra l'altro è nata quando sono nato io nel 1950. Edoardo Bruno è stato uno dei primi che ha preso, dal punto di vista critico, intanto il grande amore per Rossellini, che è stato un po' il punto di riferimento di questa rivista, e poi anche una serie di professori di estetica che, essendo fra l'altro in qualche modo un allievo di Banfi e quindi di un certo tipo di approccio filosofico, estetico, molto vicino a quello di Rossara, in qualche modo ci ha fatto parlare uno stesso linguaggio. Daniela è una delle più brave critiche di film critica della nuova generazione, quindi saremmo molto contenti di confrontarci Bene, con lei. allora ricordiamo l'appuntamento con il film del secolo di Rossana Rossanda, Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri alla libreria Fahrenheit 451 a Roma, a Piazza Campo dei Fiori, il prossimo 22 aprile alle ore 18. Roberto, un abbraccio, a risentirci presto. Costa 12 euro il libro. Ok.